tema di questa sera, Elisabeth von Arnim, nacque in Australia come sua cugina. Entrambe facevano Beauchamp di cognome. Lei, Elisabeth von Arnim, era Marie-Annette Beauchamp, il suo nome vero, e sua cugina, Catherine Mansfield, ricorderete che era Kathleen Beauchamp. E nacquero entrambe figlie della ricca borghesia inglese trasferita nelle colonie. E il padre era un mercante, era un uomo ricco ed era anche un uomo, il padre di Elisabeth era anche un uomo colto. E infatti, quando Elisabeth aveva 3 anni, tornarono a Londra e a lei fu data la possibilità di un'istruzione, di un'ottima istruzione, e anche della possibilità di studiare materie artistiche. Quindi da questo punto di vista fu fortunata, perché le fu permesso di studiare. Venne educata a Londra e a 25 anni sposò un conte tedesco, il cui nome non ha nessuna importanza, comunque il cognome era von Arnim, da cui lei poi prese il nome d'arte. Era un aristocratico molto più vecchio di lei, aveva 16 anni più di lei, e a parte il fatto che era più vecchio, doveva essere sicuramente maschilista, al limite della misoginia, perché nei libri che sto leggendo io, accanto a Un incantevole aprile, parallelamente ho letto anche altre due sue opere molto conosciute, che sono Il giardino di Elisabeth, che è l'opera con la quale lei si è fatta conoscere, tant'è vero che poi il nome Elisabeth lei lo ha conservato come pseudonimo, firmando tutti i suoi libri successivi con lo pseudonimo dall'autrice del giardino di Elisabeth, e poi rimase Elisabeth, anche se il suo nome era Mary Annette. E il seguito del giardino di Elisabeth, che è Un'estate da sola, che già il nome è, la dice lunga. E in questi due libri il marito prussiano che lei descrive, perché è una figura presente, è veramente un uomo, insomma, odioso, nel senso saccente, supponente, misogino, nel senso che ha un concetto nei discorsi che lei riporta e che sembrano quasi riportati di pari passo, cioè scritti letteralmente in base a quello che lui le diceva, sembra veramente che fosse proprio misogino, cioè aveva proprio l'idea che le donne fossero stupide o comunque deboli, incapaci di prendere decisioni. Infatti lei lo chiama l'uomo della collera o l'uomo della rabbia, a seconda della traduzione, che è una maniera biblica per intendere un uomo collerico, un uomo che insomma fa valere la sua autorità, e un uomo poco gradevole. Infatti con quest'uomo non fu un matrimonio felice, ebbero 5 figli, 4 femmine e un maschio, ma lei poi si separò, anzi rimase vedova, lui morì prematuramente e lei rimase vedova, non in buone condizioni economiche, perché lui perse tutto per investimenti sbagliati o qualcosa del genere, perse tutta la sua fortuna. Prima però che questo avvenisse, lei riuscì a vivere per alcuni anni nella tenuta di famiglia dei conti von Arnim in Pomerania, in Germania. Lui era tedesco, quindi lei lasciò l'Inghilterra e si trasferì in Germania. E in questa tenuta, all'inizio vissero a Berlino, ma lei, Elisabeth, la chiamiamo così perché questo è il nome con cui è conosciuta, non amava la vita di città, non amava questo modo di vivere insulso, queste dinamiche sociali delle elite, diciamo, dell'aristocrazia. Lei le trovava noiose, le trovava frivole e poco nutrienti per la sua anima. E quindi quando scoprì questa tenuta che il conte aveva, chiese di rimanere lì e cominciò a coltivare un giardino, senza avere nessuna conoscenza di come si fa un giardino, quindi sbagliando inizialmente, discutendo con i giardinieri, perché i giardinieri volevano seminare a modo loro, mentre lei aveva le sue idee, voleva fare una cosa che, leggendo così, si avvicina molto a quella che noi oggi chiameremo permacultura, cioè lasciare che le piante crescano in modo disordinato senza, mentre i giardinieri tedeschi e uomini invece volevano fare tutte le file dritte, fare una cosa molto schematica, molto geometrica. Questo concetto di giardino mi ha riportato molto alla memoria il giardino segreto, quel bellissimo racconto che passa per libro per l'infanzia, ma che è tutt'altro in realtà, perché sono tutte quante allegorie di un risveglio spirituale, no? Prendono il giardino come luogo dell'anima per risvegliarsi. Quindi sia Elizabeth von Arnim, ma anche Catherine Mansfield, anche Virginia Woolf, in molte hanno usato l'allegoria del giardino, se pensiamo a Heidi, per esempio, della montagna, comunque l'allegoria della natura, il luogo della natura come luogo per il risveglio dell'anima, per il ricontattare se stessi. No, vedo Ilaria che fa così con la testa, immagino che sia un po' quello che sta succedendo a lei, lì dove si trova tutti i giorni. E tutte noi, insomma, che abbiamo la fortuna di avere un po' di giardino, un po' di fiori, sappiamo bene cosa significa ogni primavera, quando dopo l'inverno ributtano i germoglietti, che vediamo le prime gemme ogni anno, è un'emozione, un incanto, no? Ogni anno questo miracolo dello scoprire che la natura non muore, che sopravvive, che ogni anno si rigenera, una grande lezione. Quindi lei si dedica a creare questo giardino che per lei è il rifugio, è il luogo della pace dove lei può dedicarsi a leggere, a pensare, a riflettere, a stare con le sue bambine, queste sue tre figlie che lei ama teneramente, che si chiamano April, May e June, aprile, maggio e giugno, che sono tre bambine vivacissime, intelligentissime, alle quali lei in maniera molto, molto montessoriana, se vogliamo usare questo termine, dà la massima libertà, le lascia scorrazzare, razzolare nella natura, permette loro di sporcarsi, di essere espressive, di essere istintive, quindi non le blocca. E questo marito, questa presenza così, diciamo, che aleggia, no? Sempre un po' questo uomo di collera, questo uomo di rabbia, che sembra quasi che la sfidi continuamente, sia nel primo che nel secondo volume, che la sfidi a dimostrare che non è stupida. Ecco, addirittura nel secondo volume, Un'estate da sola, il cui titolo viene dal fatto che lei chiede al marito all'inizio dell'estate, in maggio, di non invitare ospiti nella tenuta, perché lei non ha voglia di dover passare le sue giornate a intrattenere, a fare conversazione con persone di cui non le importa nulla. Lei vuole stare nel suo giardino, vuole andare al mare, vuole stare con le sue bambine, vuole essere libera di leggere, di studiare, di pensare, di camminare nella natura. E il marito la sfida, ridacchiando, dice che lei non sarà assolutamente capace di resistere 6 mesi, cioè da maggio a settembre, non so se sono maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 5 mesi, ogni mese un capitolo del libro, non sarà capace di resistere senza ospiti, cioè si farà prendere dalla solitudine, dall'angoscia della solitudine. E infatti il libro finisce con lei che dice al marito: hai visto che voi siete le sottovalutate, le donne, pensate sempre che siano come voi pensate che dovrebbero essere. Quindi sono libri suoi che con molta ironia, tipicamente britannica, con molta sottigliezza, con molta eleganza, ma stabiliscono il potere, stabiliscono come dire, il riscatto dell'intelligenza femminile, e la fanno valere. I suoi libri sono libri che potremmo definire quasi femministi, nel senso che lei non perde l'occasione per difendere le donne e per mettere in luce tutte le brutture alle quali le donne erano costrette a sopportare. Per esempio, in Il giardino di Elisabeth racconta di queste donne polacche che venivano con i loro mariti a lavorare nella tenuta, che venivano con i carri, con i bambini a fare le stagioni, come braccianti chiaramente, e racconta che le donne praticamente erano sempre incinte e che spesso con i pancioni lavoravano, andavano a lavorare nei campi per non perdere la paga. E lei racconta proprio che gli uomini venivano pagati 1,50 marco al giorno e le donne venivano pagate di meno, non perché lavorassero meno, producessero meno, ma perché le donne non andavano incoraggiate. Quindi il suo stesso marito le pagava meno perché era convinto che le donne non dovessero lavorare, ma queste donne non avevano scelta, dovevano lavorare per forza. Nonostante questo venivano pagate di meno e spesso per non perdere la giornata di paga, quando era il giorno del parto, lavoravano fino all'ultimo momento nel campo, poi correvano a casa, partorivano e poi subito dopo, appena aver partorito, lasciavano il neonato o la neonata ad una donna anziana che si occupava di tutti i bambini e tornavano doloranti a lavorare e a zappare. E quando lei reagisce con il marito dicendo che è una cosa orripilante questa, che non si può vedere, queste poverette, oltretutto, i cui mariti non tengono minimamente in conto quando metterle incinte, cioè non aspettano che queste poi possano partorire in un momento in cui sono comode, anzi, dice, probabilmente non si accorgeranno nemmeno che le loro mogli hanno partorito e magari le picchieranno perché la cena quella sera lì non è buona. E il marito le risponde che le donne polacche non soffrono quando partoriscono perché né loro, né le madri, né le nonne hanno mai portato il corsetto. Quindi dimostrando veramente una grandissima sensibilità e una grandissima empatia con le donne. Ecco, questo è un po' quell'uomo, l'uomo di rabbia, l'uomo di collera che lei descrive nei suoi libri. E io credo che invece un incantevole aprile, che nel film le figure degli uomini sono un po' sfumate, non hanno molto spessore, nel libro invece sì, e nel libro lei riscatta pienamente queste figure di mariti. Io stessa, leggendo il romanzo, mi chiedevo, beh, ma che bisogno c'è? Quasi all'inizio ero quasi infastidita, no? Dal notare come queste quattro donne subito Lotti, la figura un po' sciamanica, diciamo, delle quattro, quella che più è istintiva, la prima che si lascia ancora una volta sedurre dalla natura, che viene migliorata, risvegliata dalla natura, perché sempre nell'opera di Elizabeth c'è questa natura che fa da culla e dal luogo del risveglio spirituale. E Lotti, che in un punto bellissimo dice che lei con il marito a Londra era meschina perché si aspettava di essere amata in base a quanto lei era servizievole con lui, no? Quindi si aspettava l'amore di lui quasi come forma di ringraziamento per i suoi servizi, perché gli cucinava il pesce che gli piaceva di più, quindi, o comunque tutte le cose che a lui piacevano, perché gli faceva trovare la casa condotta bene, perché non fiatava mai. Quindi si aspettava che lui in cambio l'amasse. Questa Lotti, questa figura di donna così sensitiva, risvegliata, che poi contagia anche le altre tre, dice: io ero meschina perché misuravo l'amore, perché mi aspettavo che lui mi dovesse amare in base al fatto, in base a quanto io lo amavo, in quanto io ero servizievole per lui. Invece l'amore non si può misurare, l'amore deve nascere spontaneamente, l'amore può solo essere dato senza aspettare di riceverlo in cambio. E lei di questo si rende conto nella casa di San Salvatore in Liguria, perché si trova in mezzo a questo paradiso naturale, a questo giardino meraviglioso, pieno di fiori che anche lì crescono spontaneamente, un po' selvaggi, il mare sotto le finestre, questa natura selvaggia che a Londra non c'era. Quindi lei diceva: a Londra è impossibile essere. Avere tutto questo amore spontaneo che sgorga perché a Londra è impossibile essere felici, mentre qui in questo giardino, ancora una volta, c'è il giardino come allegoria della gioia, della felicità, dell'armonia. Qui è possibile risvegliarsi e dice alle altre donne: tra un po' anche voi vi renderete conto che non potete fare a meno di invitare qui i vostri mariti semplicemente per dare a loro l'amore, così, senza aspettarvi nulla in cambio. Quindi lei invita il marito. E dopo pochi giorni che li invita il marito, e dopo un po' anche l'altra, quella un pochino più restia, Rose, invita il marito. E mentre io leggevo il fatto che nel romanzo queste due donne invitano i mariti e questi mariti vengono così riscattati, tra virgolette, no? Vengono dipinti come degli esseri ragionevoli, con delle ottime idee, molto più bravi delle donne a condurre la casa, per esempio, o a risparmiare sul vitto o a organizzare tutto, mentre le donne sembrano più dispersive, così più incapaci di occuparsi di cose concrete. Stessa Stamattina ero un po' infastidita, pensavo mentre leggevo, ma che bisogno c'è in un romanzo che parla di quattro donne che scoprono se stesse, che cominciano ad essere fredde e sospettose l'una con l'altra e finiscono questo mese di vacanza grazie al giardino, grazie alla natura, finiscono in perfetta armonia, in perfetta sorellanza, in perfetta condivisione, che bisogno c'era per l'autrice di inserire queste figure di uomini? Le ho sentite proprio quasi come se fosse un ossequiare, no? Una maniera di ossequiare l'universo maschile. E lì ho avuto un flashone, ho detto: caspita, ma questi mariti sono la trasposizione letteraria di quello che lei avrebbe voluto. Cioè, lei ha inserito Elisabeth von Arnim, ha inserito in un incantevole aprile un marito perfetto, che è quello che avrebbe voluto lei, cioè un marito che si riscatta nella natura, che diventa tenero con sua moglie, che diventa, che la coccola, che la rispetta, che riscopre la sua bellezza, che le dice: ma che bei capelli che hai, che la bacia, cosa che a Londra non aveva mai fatto. Mi sono resa conto che lei lo ha scritto perché questo è quello che lei avrebbe voluto dal suo marito aristocratico prussiano, che invece probabilmente doveva essere un uomo ruvido, duro, che non si concesse mai un momento di così di tenerezza, un momento di lasciarsi andare dalla durezza e dal pregiudizio nei confronti delle donne. Tornando alla vita di Elisabeth, praticamente a un certo punto la famiglia, lui perde tutti i suoi beni, quindi sono in difficoltà economica. Lei comincia a scrivere, lui solleva le sopracciglia un po', insomma, perché non è all'epoca le donne che scrivevano erano considerate delle donne poco per bene, quindi lui non è contento che sua moglie scriva, fino a che non si rende conto che lei vende bene, quindi guadagna dei soldi. Allora improvvisamente e con molta elasticità cambia completamente idea e comincia a incoraggiarla. E qui viene da ridere perché ci ricordiamo che a quell'epoca il denaro guadagnato dalle mogli diventava proprietà dei mariti. E fu Emmeline Pankhurst, poi con le suffragiste, se vi ricordate, a cambiare questa norma, perché fu proprio la lotta delle suffragiste a dire: no, il patrimonio della moglie rimane della moglie, non diventa del marito. Invece, ai tempi, quando Elisabeth von Arnim scriveva, e questo successe, se vi ricordate, anche a Colette, contemporaneamente succedeva a Colette in Francia, che i soldi che lei guadagnava come autrice se li intascava il marito, ma non solo, il marito firmava i romanzi della moglie e firmava anche gli autografi, quindi peggio ancora, cioè Colette era proprio una ghostwriter, una scrittrice fantasma che produceva per il marito firmava e si spacciava a tutti gli effetti per autore. Perlomeno Elisabeth von Arnim firma lei inizialmente come dall'autrice del giardino di Elisabeth, e poi diventa Elisabeth e poi Elisabeth von Arnim. E il marito a quel punto la incoraggia perché entrano soldi in famiglia, che ce n'era bisogno in quel momento. Ma muore prematuramente, lei se ne ritorna a Londra. Una cosa che hanno in comune lei e la cugina Catherine Mansfield è questa maniera molto divertente di descrivere la Germania con tutti i suoi pregiudizi, con tutte le sue pesantezze, anche ottusità, soprattutto da parte delle donne, e che probabilmente dovevano essere così perché io ho l'impressione che descrivano in maniera molto dettagliata, senza inventare nulla. È proprio una pennellata quella che loro utilizzano, che ritrae la realtà, sì, con ironia, ma com'è, senza inventare nulla. E quindi questa è una cosa carina che hanno in comune, perché lei, i suoi giardini, il giardino che lei descrive è in Germania, in Pomerania, e Catherine Mansfield scrisse una serie di racconti ambientati proprio in Germania, a tavola, dove lei descrisse con dovizia di particolari la maniera che avevano questi pensionanti tedeschi di abbuffarsi e di praticamente finire un pasto e cominciare con l'altro, ed è la stessa cosa che descrive Elisabeth, che dice: non è possibile che questa gente passi tutta la giornata aspettando di sedersi a tavola e ingozzandosi così. Praticamente Elisabeth ritorna a Londra dopo la morte del marito e si si sposa con un altro nobile inglese, anche lì le cose vanno male, lei probabilmente era una donna troppo indipendente, anche se non lo era ancora dal punto di vista concreto, monetario, ma dal punto di vista psicologico e spirituale sicuramente era una donna indipendente, emancipata, tant'è vero che quando muore il secondo marito, che era un duca, lei non si sposa più, comincia a frequentare gli intellettuali, le femministe, i filosofi, un ambiente molto stimolante dal punto di vista intellettuale, un ambiente sicuramente progressista, e frequenta per esempio Foster, Edward Morgan Foster, sapete, l'autore di Camera con vista e di Casa Howard, tutti i film di James Ivory. Foster, che faceva parte del gruppo di Bloomsbury con Virginia Woolf e gli altri, fu il precettore dei figli di Elizabeth von Arnim, per dire, no, il tipo. E lei ebbe una serie di amanti, tra cui per esempio anche Wells, l'autore della Guerra tra i mondi, lo scrittore di fantascienza, ed ebbe sempre un giardino. Quindi visse tra la Svizzera, Londra, con lunghe pause in Italia, poi si stabilì nel sud della Francia perché non poteva stare senza giardino. Dovunque andasse, lei creava un giardino dove riceveva gli amici e spostava tutti i suoi libri. I libri e il giardino erano il suo mondo, la sua cattedrale. Lei, quando aveva queste due cose, io la capisco tantissimo, quando aveva queste due cose lei era tranquilla, non le serviva altro. Pubblicherà ben 17 romanzi. Un incantevole aprile è ispirato a una vera vacanza che lei ebbe al castello Brown di Portofino. Quindi lei descrive un ambiente, questo castello di San Salvatore, era un castello vero che lei vide veramente, la natura rigogliosa della Liguria in primavera, in aprile. Io penso che Violetta ce lo possa confermare perché lei vive a Lerici, quindi chi meglio di lei? Penso che sia davvero così, cioè che sia la Riviera, insomma, è famosa nel mondo la Riviera Ligure, e quindi lei praticamente descrive come queste quattro donne, di cui una molto ricca, una addirittura nobile, le altre due, diciamo, della media borghesia, stando a contatto con la natura, escono veramente da tutti i loro limiti, lasciano andare tutte le loro pregiudizi, i loro pregiudizi, le loro ristrettezze, e alla fine diventano realmente amiche e cominciano a cercarsi l'una con l'altra, lasciano andare gli stereotipi, anche il modo stesso di parlare diventa diverso, soprattutto la più anziana, quella che nel film è interpretata da Joan Plowright, lascia cadere tutte quelle rigidità tipiche della società vittoriana, la cosiddetta decenza, no? Il decoro, questa parola che nei romanzi di Jane Austen troviamo continuamente, il doversi comportare con decoro, il che significa non poter fare quasi nulla, perfino nominare l'espressione camera da letto, camera nuziale, era considerata indecorosa. Ecco, quindi termino praticamente con un. Allora, cito una frase. Elizabeth visse a lungo, mentre la cugina Catherine, vi ricordate, morì a 35 anni di tubercolosi e durante la sua vita non riuscì a pubblicare quasi nulla perché aveva uno stile così particolare, non venne capito. Catherine Mansfield divenne famosa grazie all'opera che fece suo marito, che era uno scrittore anche lui, ma che passò, dopo la morte di Catherine, passò tutto il resto della sua vita a raccogliere e a promuovere i racconti della moglie, e di questo bisogna dargli atto. Invece Elizabeth von Arnim divenne una scrittrice di successo in vita, scrisse molto, fu conosciuta, fu apprezzata ed ebbe una vita, nonostante i due matrimoni andati a male, nonostante sicuramente le difficoltà di una donna che decise di vivere in maniera così libera come George Eliot, vi ricordate che visse More uxorio con un uomo che era sposato con un'altra donna, quindi sicuramente donne con un carattere intraprendente che decisero di infischiarsene delle regole sociali, ed è questo che fa sì che noi le mettiamo nel cerchio delle nostre antenate, perché noi abbiamo un bisogno enorme di ispirarci a queste donne così forti, così coraggiose, così libere da ogni schema mentale. Visse lei una vita bella, felice, serena, positiva, fu una donna estremamente positiva, estremamente fortunata, che non non si crogiolò mai nella difficoltà del suo matrimonio, nelle difficoltà, quindi diciamo che prese il lato bello della vita e a 73 anni era ancora viva, una buona età per donne di quell'epoca, e scrisse a 70 anni una cosa divertente. Nel suo diario scrisse: "Adesso sono davvero una donna anziana a 70 anni e non devo dimenticarlo", dice. "Ci si abitua talmente ad essere giovani che si finisce per credere che sarà per sempre", e ovviamente intende giovane dentro. "Mi devo ricordare che non è così e mi aiuteranno gli specchi", quindi grandissima ironia. Morì praticamente negli Stati Uniti, perché a causa della guerra scappò dall'Europa, scappò negli Stati Uniti e morì nello stesso anno in cui si suicidava Virginia Woolf. Ecco, adesso io vorrei che la incontrassimo nel nostro cerchio. Se volete potete ascoltare la lettura di Un incantevole aprile che sto finendo di registrare, ed è veramente delizioso anche ascoltarlo prima di dormire. Aiuta a Ma è diverso rilassare. dal film che abbiamo visto. No, no, no, la storia è la stessa, ma nel romanzo ci sono tutte le sfumature psicologiche delle evoluzioni delle quattro donne, che nel film, non, nel film si dà prevalenza alla storia, mentre nel romanzo è veramente descritto con una precisione, con una lucidità, il cambiamento di stato d'animo delle quattro donne, no? Che sono proprio quattro risvegli, quattro forme di risveglio, perché si vede proprio come la Lady Caroline Dester, che inizialmente voleva stare per conto suo, non voleva assolutamente essere disturbata da nessuno, cerca un angolo del giardino dove nessuno la trova, addirittura quando vede passare una delle altre due donne, fa finta di dormire perché non vuole parlare con nessuno, è estremamente snob, estremamente viziata, estremamente ricca. L'altra, la più anziana, addirittura non esce mai dal suo salottino. Lei decide che quel salotto lì è suo, non permette nemmeno alle altre donne di entrarci, nonostante la casa fosse stata affittata in comune. E quando per sbaglio Lotti entra nel salotto, perché non sa che quell'altra ha deciso che è suo, e trova la carta da lettere e la penna e comincia a scrivere al marito per invitarlo, e non sa che quella carta da lettere e quella penna sono della signora anziana, della signora Fisher, viene sgridata malamente. Quindi sono la Lady e l'anziana sono proprio due donne odiose, chiuse in se stesse, una proprio addirittura avara. Le altre due invece, le due diciamo mediane, della media borghesia, una è Lotti, è quella che per prima si risveglia, quella dalla quale parte l'iniziativa di prendere il castello. E che addirittura questo per esempio nel film non esce, il cambiamento di Lotti nel passare da una creatura inibita, quasi balbuziente, vergognosissima, incapace di esprimersi, paurosa come era a Londra, improvvisamente già il primo giorno che si ritrova nella natura selvaggia della Liguria diventa una dea. E riesce ad esprimersi perfettamente, riesce addirittura a farsi apprezzare dalla Lady per la sua spontaneità, per la sua bellezza, quindi si trasforma completamente, dalla creatura più impacciata diventa quella più solare, più fiorisce. E la quarta donna, che è Rosa Arbuthnot, che è una tutta di chiesa, tutta che fa le opere. Si occupa dei poveri, insomma, vota la sua esistenza alla Chiesa per pareggiare un po' l'attività del marito, che nel film, oddio, non mi ricordo il nome di quell'attore inglese, vabbè, non importa. Comunque, il marito praticamente di mestiere scrive romanzi osé, e quindi lei che è stata educata nella tradizione religiosa si sente in colpa per il fatto che praticamente viene mantenuta dal marito con i soldi che entrano da questo lavoro, secondo lei, non decoroso, e quindi per compensare fa opere di bene, va in chiesa, aiuta i poveri, e mentre è a San Salvatore in Liguria, si rende cioè, sente l'erotismo dentro di sé, si rende conto che lei ha desiderio di questo marito, è proprio desiderio fisico, di amore, di essere baciata, cosa che a Londra non ammetteva neanche con se stessa. Quindi si rende conto che era stata lei a bloccare, a disamorare il marito con la sua freddezza, con il suo essere così ritrosa, no? Con il suo colpevolizzarlo, lo aveva allontanato. E quindi decide anche lei di invitarlo perché sente il desiderio fisico dell'amore. E questo è un altro messaggio bello che Elizabeth von Arnim ci dà, cioè la fisicità. Giorgia, secondo me, leggendo, ascoltando, sentirebbe addirittura il profumo dei fiori, perché descrive questi giardini, questa natura in una maniera talmente dettagliata che sembra proprio di inebriarsi con il profumo della salsedine, i sapori del cibo. Ed è questa descrizione di tutta la parte fisica, tattile, olfattiva, che normalmente non viene, a cui non viene dato spazio normalmente nella letteratura di quell'epoca. E quindi è un'altra delle cose per cui vale la pena di leggere, insomma, quantomeno di ascoltare il romanzo, perché tutte queste cose non escono nel film. Insomma, alla fine del romanzo, Un incantevole aprile, queste quattro donne sbocciano tutte e quattro, perfino l'anziana molla il bastone. E la cosa carina che fa proprio pensare alla sorellanza è che lei il bastone lo molla già quasi subito, sente che le gambe possono camminare da sole, sente che non ne ha bisogno, ma non si azzarda a farlo, si vergogna perché il decoro le impone alla sua età di mostrarsi dolorante, di mostrarsi sofferente, cioè non sarebbe decoroso per una donna anziana, vittoriana, mostrare che non ha acciacchi alla sua età, quindi si sente in dovere di lamentarsi, di essere così antipatica. E quando si accorge che non le piace essere così, che vorrebbe camminare senza bastone, che vorrebbe parlare con le altre donne, che vorrebbe raccontare loro della voglia che avrebbe di andare in spiaggia, di annusare i fiori, sente il desiderio di condividere, questa è proprio una cosa tipica della sorellanza, sente che questo suo desiderio, questa sua gioia nel cuore non ha nessun senso se non la può condividere con le altre donne. Quindi se non può creare sorellanza, e alla fine lo farà, alla fine lei sentirà proprio il desiderio, lo farà, di raccontare questa sua evoluzione alle altre donne. Quindi alla fine si crea un cerchio, un micro cerchio di donne, queste quattro donne, che dal primo pasto in cui ognuna è per sé, sono così riservate, chiuse, fanno solo discorsi di circostanza, arrivano agli ultimi pasti, dove praticamente è proprio un cerchio di donne, assolutamente, forse Elizabeth non era consapevole, ma era così. E in questo gli uomini sono ben visti, cioè vengono inseriti in armonia all'interno di questo gruppo di donne, che sono due mariti più il proprietario della casa, che poi si sposa con la lady. E l'anziana è vedova, quindi non ha una controfigura maschile, ma la sua controfigura maschile è questo bastone simbolico, che è un po' anche un simbolo fallico, che alla fine fiorisce. Con perfino il bastone non resiste al richiamo della primavera ligure e mette le gemme anche lui. Ecco, quindi lei poi se ne torna in Inghilterra senza bastone perché non ne ha più bisogno, e la sorellanza e la natura hanno compiuto il loro miracolo. Ecco, direi che in questo libro è riscattata la parte bella dell'energia maschile, ossia un maschile che alla fine si mette a servizio del femminile, che si occupa di gestire la servitù, per esempio, di organizzare, di fare tutte le cose così un po' noiose, per permettere alle quattro donne di godere appieno invece la libertà, la natura, e con estremo rispetto, ed essendo accompagnate da questi mariti che alla fine si accorgono della bellezza delle loro mogli e le amano e le rispettano. Quindi alla fine Elisabetta, attraverso la sua penna, attraverso la sua scrittura, ha il suo riscatto, il suo marito. Ce ne andiamo nel tempio, dove le nostre antenate ci aspettano, e ci sediamo in cerchio con loro. le salutiamo con lo sguardo, percorriamo il cerchio con lo sguardo, salutiamo tutte attraverso gli occhi e invitiamo ad entrare Elisabeth von Arnim, che arriva dalla porta, elegante, signorile, bella, con la sua bella testa di capelli, con i suoi occhi chiari, intelligenti, con la sua sicurezza di donna colta, di donna della buona società, di donna emancipata e indipendente, entra e ci saluta. E ora io starò zitta un po' e ciascuna di noi può parlare con Elisabeth, farle delle domande, dopo ci racconteremo che cosa ci ha detto. George Sand e confessarmi che come lei, pur avendo avuto amanti più giovani, molto, anche molto più giovani come George Sand, il suo grande amore era, è sempre stato la penna, che lei ha sempre espresso se stessa e creato se stessa nello scrivere, scrivere la, la sua vera dimensione, quindi un po' come dire che lo scrivere era il vero scopo, il vero compagno, la vera compagna della sua vita, questo è successo anche a molte altre grandi scrittrici, è successo a Virginia Woolf, a Catherine Mansfield, a molte altre che hanno trovato veramente nella dimensione della scrittura il completamento e il portare a termine la loro missione, la missione della loro incarnazione. Questo è quello che ho visto. Qualcuna vuole condividere? Dunque, l'ho vista molto sorridente, si è guardata attorno, è ovviamente molto una donna molto abituata al bello, no? Ci ha fatto i complimenti, ha detto: ah, questo è il mio più. Io ho detto: guarda, ti puoi accomodare, questo è il tuo po'. Ah, avete proprio insomma un posto di grande, mi sentite? Sì, sì. Un posto di grande dignità. Grazie, insomma, dice, è tantissimo quello che voi state facendo, risvegliando la nostra memoria. Poi ho visto che le sono andate incontro a riceverla, però ho detto: scusami, perdonami, prima che ti siedi dalle nobili antenate, fai parte di questo cerchio, io ti volevo fare alcune domande. Mi dici un po' meglio come è nata la tua la trama del romanzo, che poi insomma io ne ho visto il film, e lei mi ha detto: guarda, io devo molto a voi italiane e a voi italiani, perché quando sono stata in Italia io mi sono ripresa e ho sognato. Esattamente quello che ha detto Devane è avvenuto in me, nel senso che io ho sognato proprio che mio marito fosse così, ma c'è un aneddoto. Nella casa nella quale io andavo c'era una famiglia dell'alta borghesia, il cui marito, era proprio così, innamoratissimo della moglie. C'era questa coppia di italiani, lui era proprio così, garbato, appassionato, eccetera, eccetera. E ha detto: e per me vedere questi due amici, che poi sono diventati suoi amici, è stata veramente una. Ha capito ancora meglio, no? L'ha detto, ho capito l'amore, ho capito, sì, ma soprattutto in Italia la gioia di vivere. E questo aspetto praticamente gioioso della vita io lo devo praticamente al mio rapporto con l'Italia. E poi mi ha detto, ho sognato molto. E molte cose del romanzo vengono dai sogni, però lei mi ha voluto dire che questo sogno non era tanto diviso dall'ambiente che lei frequentava, che c'era attorno a lei all'epoca. E poi mi ha detto: questa cosa mi ha fatto molto bene, io sono ritornata molto rafforzata e ho continuato fino alla fine a lottare per questa indipendenza mia, delle mie antenate, delle mie nipoti. E ho pensato alle donne che avrebbero usufruito di tutto questo. E quindi ha detto che l'Italia per lei è stata una cura. Ha concluso dicendo: Wow, per me l'Italia è stata una cura. magnifico. Avete questo cuore, insomma. Questo, bellissimo. Poi si è seduta e le ho viste, insomma, è stata proprio assorbita. Le facevano domande, credo praticamente le sue erano più o meno della sua stessa età, le facevano domande, insomma, parlavano. Bellissimo, Ida, grazie. Qualcun altro vuole parlare? Chi non riesce a parlare, lasci comunque la testimonianza in chat, per favore. Allora, io, se posso dire, è entrata Elisabeth accompagnata da quattro ragazze, che erano le quattro donne del suo libro, e mi ha rivolto la parola dicendo: ognuna di queste donne deve regalarti un aspetto di sé. Un aspetto di sé perché sono quattro personaggi, ma penso che sono aspetti che ognuno può avere dentro, più o meno sviluppati. E quindi ci ti voglio fare questo regalo. E ciascuna mi ha detto il regalo. Allora, Loti ha detto: io ti regalo la leggerezza e la spiritualità. E Rosa, io ti invito a prendere in considerazione la parte della sessualità nella libertà. E la signora Fisher, mi raccomando, non essere legata ai tuoi schemi, alla tua rigidità, e quindi diventa sempre più una donna libera. E l'ultima, non mi ricordo il nome, la ragazza, quella che voleva stare da La sola, Lady, quella eccoli. Lady. È la Lady dice: ecco, io invece ti regalo la libertà dai pregiudizi. Ecco, quindi io ho ricevuto da loro, da ciascuna di loro, un regalo. Ma è stata molto bella questa scena dove lei teneva per mano, cioè erano quattro, ma le teneva per mano in qualche modo, insomma, queste quattro donne meravigliose. Ecco, Bello, grazie. grazie Giulietta, bellissimo. Se posso, prendo parola. Intanto lei aveva un ombrellone solare dietro, veramente era contornata da una luce molto chiara. L'ho ringraziata perché credo che sia arrivata al momento giusto, proprio per farci riassaporare un po' quello spirito di cui si parlava anche in chat, no? Questo spirito di cerchio, di sorellanza. E quindi l'ho ringraziata e lei mi ha detto: nulla è perduto, guarda tra le virgole. Poi si è avvicinata a Hildegarda che ci ha portato dei quarzi rosa, dicendo di metterli tra l'ombelico e la zona pubica. E finita proprio, cioè, prima di rientrare, ho proprio pensato a questi quattro aspetti anche della Dea, no? Come queste quattro donne in realtà poi compongono tutto. Ed è una cosa che ad esempio anche in Giulietta, no? Quando parlava dei diversi doni che le sono stati offerti, è un po' quello lo spirito, come se fossero quattro doti, quattro qualità o quattro doni che noi possiamo ricevere, ma che sono tutti dentro di noi, insomma. Quindi un po' questa cosa è andata in risonanza. Caspita, è vero, adesso mi fai venire in mente che Catherine Mansfield seguiva Gurdjieff, quindi c'è il caso che anche Elizabeth avesse comunque un'impostazione esoterica, e queste quattro donne adombrino anche in realtà i quattro volti della Dea, perché c'è l'anziana, c'è la giovane, ci sono le altre due. Questo non l'avevo pensato. Ottimo Giorgia, brava, sì, è proprio vero, i quattro volti della Dea è già ahò. Chi vuole parlare? Abbiamo ancora un po' di tempo. Velocemente vi dico il mio messaggio, che è brevissimo. Alla fine, dopo esserci un po' così salutate, bevuto insieme a qualcosa, chiacchierato, lei era elegantissima in rosso e mi ha detto: imparate a dare coraggio agli uomini. Questo è poco prima di tornare. Un bel messaggio, grazie, grazie Maria Michele. Dai, forza, chi parla? Io non so se ho ricevuto, ero un po' così, sono un po' stanca, quindi quello che ho visto io, che ho sentito, è che l'ho incontrata, una bellissima donna, con dei capelli stupendi, e niente, quello che gli ho fatto i complimenti per come scriveva, per quello che ha scritto, e lei mi ha sorriso. Gli ho detto: mi piacerebbe avere il tuo talento, perché io ho scritto dei racconti, però cioè, e lei mi ha guardato e poi mi ha regalato una piuma di cigno, non so perché, una piuma di cigno bianca, e mi ha detto: è tutto dentro di te, questo mi ha detto. Okay. Poi mi sembrava un po' così banale, però questo mi è arrivato, non lo so. Beh, è una grande verità, è tutto dentro di noi. Grazie Rosalba. Dai, Ilaria e Giovanna, forza. Dunque, mentre stavo accanto a lei, è arrivato forte il profumo di rosa. Davvero? Sì, il profumo di rosa. Interessante, perché lei parla tantissimo delle rose nel suo giardino, nel giardino di Elizabeth. Wow. Sono delle rose che si aprono e all'interno hanno una corolla che è gialla e un profumo forte da zia, acqua di rose, insomma, in qualche maniera. Mi ricorda un po' quel profumo là. E credo anche che la rosa sia un fiore che parla al cuore. E quindi, insomma, il messaggio che portava a noi era appunto di fiorire. E mentre eravamo insieme sono passate sopra di noi delle rondini. E prima le abbiamo sentite, poi ci siamo rivolte alle rondini, al cielo. E poi l'immagine è sfumata. Bello. No, questo dettaglio delle rose è interessante, perché lei... Ma c'è da dire anche una cosa, stavo navigando prima su internet e lei ha scritto anche La fattoria dei gelsomini. E quindi fiori, ma la cosa interessante è che comunque sono due fiori estremamente legati al mondo femminile, perché la rosa è l'amore inteso proprio non soltanto quello che ci lega di madre e in figlia e di nonna in madre e in figlia, ma è anche proprio l'amore divino, l'amore, la grazia, no? E il gelsomino è legato molto alla bellezza interiore, comunque anche alla sensualità, e sono veramente due elementi legati molto al femminile, e non credo che sia una caso, insomma. Non dimentichiamoci che mi trovo, perché lei ha detto: mi si sono risvegliati i sensi, no? In Italia, con la natura, con sì, questo senso praticamente anche di un'eroticità spirituale, no? Sì, sì, sì. E ne abbiamo parlato la volta scorsa, no? Del misticismo erotico con Matilde di Magdeburgo. Quindi è come se si fosse dormendo, osservando. Io ho sentito e mi si è risvegliato. Quindi probabilmente ha ricevuto un imprinting ancora più forte stando in Italia, no? Stando in questo giardino. Beh, io ho visto le immagini, mi ha fatto vedere la casa, mi ha fatto vedere la villa nella quale andava e la villa nella quale... Ed era tutto fiorito, conferma sorella, che era tutto fiorito e c'erano anche delle rose gialle. Quindi vi do conferma. E anche la casa nella quale c'erano quest'uomo e questa donna che gli hanno ispirato l'amore, no? Il sentimento d'amore appassionato. Quindi, insomma, wow, comunque nella mia immagine era immersa. È immersa in natura, cioè un impatto molto forte la natura ha avuto su di lei. Giovanna, dai, ci abbiamo ancora 5 minuti. Io ho fatto una domanda a lei, e gli ho detto da dove è nata la tua passione? E lei mi ha detto che ho visto in realtà una penna con cui lei scriveva. E lei mi ha detto, tu già lo sai come nasce la passione, e mi ritrovo, dice, a scrivere e so nel mio sogno, mi ha detto, dice, tu questa cosa la sai fare, mi si rivolgeva così a me, e poi mi ha donato un mazzo di narciso giallo, e mi ha detto coraggio e intraprendenza. Bene, wow. Violetta, vuoi dire qualcosa o ti va bene così come hai scritto nella chat? Per me va bene così, ma obiettivamente concordo con la visione di... C'è un filo conduttore tra tutte noi, questa cosa dei profumi obiettivamente è costante. E, all'inizio l'ho sentita anch'io quando tu hai parlato di glicine, perché poi dove sto io veramente, vabbè, è il periodo, è vero, però sotto casa proprio c'ho i glicini, adesso l'ho anche sentito prima un profumo, più di rosa obiettivamente, però prima di iniziare, non durante. E poi per me è stato, ripeto, molto... intimo il rapporto con lei, proprio mi ha preso le mani e mi ha detto queste cose. Ok sorelle, allora io direi che ci salutiamo con un abbraccio ideale. Bellissimo, grazie. Grazie, buonanotte, vi amo. Buonanotte, grazie, buonanotte a tutti. Ciao. Buonanotte. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao. Ciao sorelline. Ciao. Ciao. Ciao.